Buonasera, grazie, non stiamo iniziando, quindi trattenete pure gli applausi. Cioè, siamo qui per avvisarvi che fra 5 minuti partiamo, una cosa che secondo me non serve, però facciamo. Però la fai, ti presti, prendi i soldi a fine serata e la fai. Ma quali soldi? Vabbè, ma ci dividiamo 10 euro a testa. Vabbè, ho capito, ma che cazzo vuoi, ne spendi 50 e già tanto che non ti chiedono la differenza. No, beh, qua però le birre e i vini costano poco, quindi... Tanto che bei 5 minuti di riscaldamento che stiamo facendo. Guarda, io sono fiero. Potremmo fare che il pre-spettacolo è lo spettacolo. Cioè, dici, a posto così, grazie. Grazie a tutti, grazie. Adesso ci ubriachiamo insieme, facciamo passare... E offre facciamo... Valerio Ero con il suo conto aperto. No, offre Alberto Vitali, che è una persona buona. Stasera tutte le belle signorine si fanno offrire da Alberto Vitali. No, ragazzi, c'è qualcuno così, curiosità, che è arrivato a questa serata tramite Eventbrite? No. Due! Vedi che due su tre... E avete confermato su Eventbrite? Ne mancano 11! Dove sono gli altri 11? Però vai che 2 su 11 non è una brutta media, stati... Pardon? Tu lo sai o non lo vuoi sapere? Peter! Peter, quando è che fai presentatore te? Dai, in giacca e cravatta. Un applauso a Pietro Belfiore! Signore e signori! Puoi spiegare cos'è questa cosa? Ma quanti invece sono venuti con Groupon, che costa poco? Cazzo, strano. Non hai detto che era più Groupon? Esatto, invece più Bride, cos'è? Spiegalo. No, è ben Bride, io non lo so, c'è il social media manager. Perché c'è questo ragazzo che si è esibito qua qualche volta, che è molto giovane, fa il social media manager nella vita, e ci ha detto che per portare più pubblico alla nostra serata dovevamo mettere appunto l'evento su Bride, presumo si chiami, e c'erano 11 persone iscritte, ne siete arrivate in due, quindi... Sai che io avrei detto che erano loro due? No, io sai che lui lo conosco. C'ha la faccia da pirla, effettivamente. Sai che lui ti mena e ci mette un minuto? Vabbè, ma tanto io sono matto, che cazzo me ne frega. Ah, tanto io sono matto e scappo, quindi. No, è un accoltello. Che bel modo di iniziare una serata qua. Ragazzi! Ma diciamo sempre qual è la tua frase celebre per presentare questa serata. Allora, cioè, se uno si vuole... Ci sono dei volti nuovi. No, cioè, se uno... A Milano, se uno vuole, cosa fa? Giusto, presentiamo un po' la serata, ragazzi. Questa serata brutte persone, quindi... Comici scarsi, a partire dai presentatori, noi cerchiamo di offrire il peggior intrattenimento possibile. Se volevate ridere, andavate al Che Pensi Me. Visto che siete venuti qua, è evidente che vi odiate, quindi... Vi volete punire? Noi puntiamo al fatto che qui si organizzerà un grande suicidio di massa. Sai quelle belle cose da Repubblica Milano domani? È partita l'ovazione! Grazie. Probabilmente porca sì. Porca miseria. Fate con Steven Bride una sorta dobbiamo di setta. Dobbiamo specificarlo nell'evento. Suicidarsi in loco. Comunque quello lì con la cuffia là, io sono miope, non lo vedo bene in faccia, ma mi sta sui coglioni. Ragazzi, ci vediamo fra 5 minuti, mi nel raccomando senso che ti vuol menare fra 5 minuti, ha detto. Vi trovate lì fuori. Chi vuole assistere al vero spettacolo, ci vediamo fuori per la lotta. E stiamo ufficialmente iniziando questa liturgia che ci terrà insieme fino a mezzanotte inoltrata. Chi è che mi ha alzato l'asta? Non sono stato io. I signori che sono venuti per assistere allo spettacolo, chiamiamolo così, sono pregati di prendere posto. Ma non vale così, devi urlare, urla, cioè con cattiveri. Non ti sento. Signori! Così, così, come se vendessi il pesce, va. Signori! Oh, allora! Cazzo, il tuo ha funzionato. È l'R arrotata che crea un tornado, cazzo, che ti cattura. Grazie, sì, no, ma parliamo pure, non c'è problema, non siamo in chiesa. Oh, il più bastardo è il tuo collega, eh? Il mio collega viene qua, fa casino, sta lì. Sì. Broccola. Abbiamo sempre questi tre posti davanti vuoti, c'è qualcuno che vuole... Ho capito, ma d'altronde con le sedie da regista mettono anche un po' posti di soggezione. Cioè... Dici che sono sedie che non piacciono? Sembrano i posti d'onore. Lui è il ragazzo che hai offeso prima, che hai detto che non vedevi bene. Ah, guarda, no, è grosso, no, scherzavo. Guarda, dice, vai fuori, vai. Cuor di leone, cazzo, eh. Quante volte ti hanno picchiato te nella vita? No, mai, sai che ho questo record, cioè che sono sempre riuscito a far arrabbiare le persone al punto tale che volevano menarmi, ma poi non lo facevano, perché poi si metteva sempre qualcuno di mezzo. sai che sarebbe la volta, cazzo, la vendetta di tutti? Quindi ti sai qual è stata una volta in cui ho rischiato molto? Era una festa Erasmus e parlavano tutti inglese, tutti stranieri, no? E becco sto ragazzo che parla in inglese con questa ragazza, ci sta palesemente provando. Allora io vado da questi due, il ragazzo poi scopro che è macedone, quindi, okay, quindi un popolo con il quale... Guardo la ragazza e faccio "He wants to fuck you!" Quello si è incazzato come una bestia, ha iniziato a dirmi tu stai mancando di rispetto alla ragazza, questo tu stai dicendo me la voglio scopare, gente ci divideva, io dicevo è vero, cosa ti devo dire? Quella è stata la volta che ho rischiato di più. Ma in che lingua ti minacciava, in macedone o in inglese? No, in inglese, io capivo ma non riuscivo a rispondere, rispondevo solo it's true. Ah, ok, quindi dicevi è tutto vero. Esatto. Secondo me sì, cioè, io gli ho lanciato un grande assist. Quindi da quel momento hai deciso di girare tutte le serate Erasmus d'Italia e fornire i tuoi assist a tutti gli stranieri che arrivano. Io sono un novello cupido. Guarda che silenzio che si è creato su un novello cupido. ma perché quando te dici la realtà va ascoltata. La realtà è dura da digerire. Vuoi darci altre... Ma proprio così velocemente, due perle di saggezza tua, di realtà, di vita, di ragazzo di Piacenza, di uomo di Piacenza? No. Perfetto. Bravo! E chi fa partire l'applauso se non il mio Romualdo? Perno dell'Academy, insieme ad Antonio José Dante. Chi è la prima volta che viene qua stasera? Se può alzare la mano. Come ci siete finiti qua? Vedi, te lo dicevo che era troppo elegante. Come ci siete finiti? Di sicuro non è Ben Braille, questo è poco ma sicuro. No, loro due sì. Voi due con questo stramaledetto evento. Anche noi. Con quella roba lì. Ma perché non hai alzato la mano prima, porca troia? ma vedi che sei uno stronzo. Quanti siete voi? Tre? Non vedo, due quindi, sì. Due più due, quattro. Ne mancano quanti? Erano nove. Mancano nove prima, mancano sette. Sette ragazzi. No, ne mancavano 11 prima. Ah, erano 13. Erano 13. Basta, che a chi cazzo se ne frega di quanti erano. C'è qualcun altro che si è iscritto a sta cosa prima che andiamo avanti, che non lo scopriamo tra 20 minuti? No, nessun altro? Vitale, secondo me, ha messo conferma su Eventbrite. Va bene, Eventbrite, come lo dici? Eventbrite. Ma io sono madrelingua. Sì. Va bene. Andiamo avanti, è stato un rumore della sedia. Se proprio... te vuoi. No, possiamo qua a fare questo. Va bene, stasera ci sono le buste per i soldi. Sì, le buste per i soldi. Aspettiamo magari di averli fatti ridere un attimo prima di... Già, no, c'è gente che appaga. Io direi che secondo me è meglio mettono i soldi prima, perché poi vedono lo spettacolo e non c'è... Allora, potete fare così. Ci sono delle buste. Chiaramente qualcuno di voi ha pagato l'ingresso, ma ci sono delle buste per i comici, appunto, per mettere le monetuzze o anche i pezzi di carta se lo spettacolo vi è piaciuto. Appunto, andrebbe fatto a fine serata, ma vogliamo fare un po' inception stasera e lo facciamo, possiamo metterli prima e poi vediamo un po' come è andata a fine serata. Comunque, ad ogni modo, ci sono tante new entry stasera che vengono qua per la prima volta, probabilmente non li vogliono da nessun'altra parte e quindi è rimasto questo o la stazione centrale, però apriamo con una new entry. No, non è una new entry, te l'ho detto prima chi è quello con cui apriamo, te l'ha già detta prima. Ah, è vero. È vero, 5 minuti fa, non 2 giorni fa. Aspetta, torniamo indietro. Inception. Va bene, partiamo con una persona che è un po' esibisce qua. È arrugginito. Un po' arrugginito, persona... Sì. È brutto. Persona anziana. Sì, fa stasera mi ha detto che prova del materiale nuovo, infatti, scusami, mi chiese di posizionargli il leggio. Bene nella posizione dove... Che professionismo, ragazzi. Esatto, per questa persona che lui vuole. Quindi allontanati e insieme a me vi chiedo un grandissimo applauso per me. Andrea Fadenti! Dimenticate di mettere i fogli. Basta, non sono morto. Che fatica. Va bene, signori. Stasera volevo parlare di un argomento che mi sta molto a cuore... ed è la paternità. Io ho 40 anni, non sono padre e non credo lo diventerò. Così a spanne. Era un applauso per... Okay. Si vede che tu hai fatto figli, sono venuti fuori come sono venuti fuori e quindi tifi per quando uno non li fa. Bene, anche io al tuo posto farei lo stesso. Signorina, prendo lei. Secondo lei, io ipoteticamente, potrei essere un buon padre? E si sbaglia, signora mia. Si sbaglia di netto. Mannaggia lei che le ho fatto questa domanda. No, non credo che potrei essere un buon padre. Però quando di base gli amici o le persone mi chiedono «Ma tu, Andrea, un figlio non lo fai?» Io rispondo sempre la stessa cosa, dico adesso no, ma in futuro mi piacerebbe. Poi mi rendo conto che ho 40 anni, statisticamente sono a metà della mia vita e in un futuro molto prossimo sarò sicuramente morto. Se poi voi considerate lo stile di vita che io faccio, statisticamente sono ben oltre la metà della mia vita. Ma questa è una storia un po' particolare. Quindi l'unica maniera che ha uno come me per fare un figlio è quella di farlo durante la classica crisi di mezza età che investe noi uomini, alcuni uomini. Quindi praticamente sono io a 50-55 anni che metto incinta una disgraziata di 25, faccio un figlio e dopo 10 anni muoio. Orfano prima dei 15 è il mio motto. Se scopi con me, se scopi con Fadenti, non lo vedi arrivare ai 20. Così, nata adesso. Andiamo avanti, ecco, quindi alla fine non credo diventerò padre, però se ci pensate bene siamo 7 miliardi di persone, non c'è bisogno che tutti facciano figli, quindi qui parlo ai maschi perché siamo noi uomini che abbiamo la pistola fumante, non credo che noi uomini dobbiamo per forza di cose diventare tutti padri, quindi forse ci vorrebbe ad un certo punto della vita, quando sei nella fase di età prepuberale, diciamo, quando non hai ancora gli ormoni, tu dovresti andare a una sorta di test, tu maschio, a una sorta di test dove c'è Dio che ti guarda, ti giudica e capisce se è il caso di metterti il cazzo o meno. Sembra contorta, ma adesso la prendo un po' più in maniera concreta. Voi dovete immaginare questo esame come l'esame di quinta superiore. Partiamo dalla materia, quella dove siete andati sempre peggio per tutti i 5 gli anni. Non so, ognuno ha la sua. Tu cos'era quella che ti... la più ostica, dove andavi di merda? Matematica. Tu? Geografia. Latino. Pensate, Adolf Hitler francese. Non fa ridere, ma però è una curiosità. È così, mi fa mai far ridere. Vabbè, quindi latino, matematica, questo e quell'altro. Io ho fatto l'Istituto Tecnico Statale per Geometri. So che ci sono dei colleghi qua in sala. E quindi probabilmente rideranno molto, spero almeno loro. Ho fatto l'Istituto Tecnico Statale per Geometri a Mantova e la materia per me molto ostica era costruzioni. Costruzioni è una materia dal nome particolare, ma se voi potete capire bene da questo nome che è una materia molto importante se non si vuol far morire la gente sotto i palazzi che crollano. Quindi è una materia abbastanza, come dire, importante se si vuole diventare geometra. Io ho preso sempre brutti voti in pagella. Ho preso 3 il primo anno, ho preso 3 il secondo anno, ho preso 3 il terzo anno, 3 il quarto anno, 3 il quinto anno. L'unico anno dove ho preso 6 è stata la seconda volta che ho fatto la seconda. Perché quindi avevo già fatto gli argomenti e quantomeno ero un po' facilitato. Arrivo all'esame dello scritto e ovviamente, appunto, all'esame dello scritto, se vuoi fare il geometra, costruzioni c'è per forza, al 150%. E l'esame scritto, quando l'ho fatto io, consisteva nel progettare, quindi nero su bianco, su carta, da zero, un qualsiasi cosa, un qualsiasi tipo di edificio. Tenete bene presente che quando dovete progettare un edificio, questa è la parte divertente, quando dovete progettare un edificio dovete fare tutti i calcoli, dovete fare i disegni, li facevamo all'epoca con la matita, la squadra e il righello, sembra un racconto da Libro Cuore, ma è Mantova anno 2002, non era così tanto tempo fa. Poi c'erano i trasferibili, quindi il pennarello, tutte queste cose qua, il taglierino, tutti questi oggetti che non si usano più, a meno che tu non voglia ammazzare un tuo compagno di classe. E poi c'erano da fare tutti i calcoli, perché tu dovevi progettare l'edificio dalle fondamenta, quindi da quello che sta sottoterra, le fondazioni, fino al tetto. Potevi progettare un magazzino, potevi progettare un albergo, potevi fare quel cazzo che volevi. Dovevi scegliere anche il materiale. Cioè, faccio un esempio, lo puoi fare in legno, lo puoi fare in cemento, lo puoi fare in calcestruzzo, lo puoi fare come cazzo vuoi. E la cosa bella di quando fai questi edifici è che devi fare dei calcoli, perché devi tenere conto di determinate variabili. Faccio un esempio: se uno progetta una baita in montagna, deve tenere conto che cadrà molta neve e per molto tempo. Se uno progetta un edificio in Colombia, dovrà tenere conto che ci sarà la stagione dei temporali, dove piove tantissimo e per molto tempo. Se uno progetta un albergo con un grande terrazzo, magari deve tenere conto che ci siano 400 persone tutte contemporaneamente. Queste cose qua che cadono addosso agli edifici sono forze della fisica, quindi sono forze della fisica applicate alle cose concrete, quindi a strade, a terrazze, a ponti. Tutto questo discorso per dire che quando tu devi progettare l'edificio, se lo progetti in legno, lo devi verificare con le forze contrastanti al legno. Se tu lo progetti in calcestruzzo, lo devi verificare con le forze contrastanti in calcestruzzo. Ma se fai come ho fatto io, che progetti un edificio di 3 piani in legno, bellissimo, maestoso, ecologico, ma poi lo verifichi con le forze del calcestruzzo, l'edificio viene giù in 2 secondi. Era un albergo pieno, alta stagione, 450 persone, una strage. Sono morti tutti. Lutto nazionale. Ho preso 3. Arriva il momento dell'orale. Ero spacciato. Se quel professore mi avesse chiesto la minima domanda difficile, niente di trascendentale ma qualcosina di complicato, avrei riconfermato il 3 e sarei stato ovviamente bocciato. E qui arrivo al punto del cazzo, l'ho presa larga. Quel professore quel giorno mi disse, mi fece 2 domande molto semplici, ma mi disse: io ti faccio passare se tu mi prometti che nella vita non eserciterai mai la professione. Mai. A distanza di 20 anni, ho promesso, a distanza di 20 anni posso dire di non aver mai esercitato la professione. E ora torniamo a Dio. Tu sei lì, età prepuberale, nudo, di fronte a Dio. Sei nudo, senza cazzo. Sei tipo Candy Barbie, tipo Playmobil, tipo Elliot Page. Ci metto un pochino questa. Ed è Dio che lì che guarda la tua cartella, no? Di quello che hai fatto. Toccato una tettina, dato un limone a una ragazzina, hai guardato il pornetto, hai guardato il giornaletto, e tutte cose, vabbè. Se tu mi prometti, Andrea, che non avrai mai figli, io ti do il cazzo. Lo prometto, Dio. Boom! Ecco il cazzo. Grazie, signori. Non ha una grande fine, ma ci stiamo lavorando. Bene, abbiamo iniziato con me, ma io rimango ancora qua, grazie del calore, perché adesso, se la scaletta non mi inganna, no, io non rimango qua, presento la seconda persona, dopo torno qua. La seconda persona è una new entry, è l'unica quota rosa di stasera, mi dispiace chiamarla quota rosa, ma tant'è che è così. Dovrei ricordarmi il nome, ma non me lo ricordo, forse sbaglio il cognome, dovrebbe chiamarsi, quindi chiedo un grandissimo applauso per Anna Carrara. Buonasera, ciao a tutti, io sono Anna e sono a disagio. Diciamo che ho un problema, cioè tanti, ma uno che è più evidente di altri, ed è che lavoro in uno studio legale. Di per sé non è un grosso problema, se non che mi devo vestire circa così. Ok, quindi esco da lavoro e devo venire tipo qua vestita come se dovessi andare ad un funerale, il mio. E come state? Come state questa sera? Bene, bene. E io purtroppo non molto bene. Qualche mese fa stavo uscendo con un ragazzo e mi ha scaricata. Mi ha detto che avrei dovuto farmi vedere da uno bravo e quindi sono qua stasera. Grazie. Vorrei cominciare parlandovi del momento più traumatico della mia vita, ma penso quello della vita di tutti, che è... Dai, qual è il momento più traumatico della vita? L'adolescenza. Bravo, esattamente, l'adolescenza. L'adolescenza, secondo me, è un momento terribile, soprattutto perché l'adolescenza ha un odore, ed è quello dello spogliatoio maschile. In qualsiasi momento, tu entri in una classe di liceo e sa di spogliatoio maschile. E non sai perché. E soprattutto perché tu stai entrando nella classe di un liceo delle scienze umane, sono tutte ragazze, odore di spogliatoio maschile. Gli adolescenti sono terribili. Qualcuno di voi ha figli? Però vista l'età media, penso, progettate di avere figli? Andrea Padenti. Allora, io do un consiglio a quelli che progettano di avere figli. Quando vostro figlio o vostra figlia raggiunge i 13 anni, datelo via. È una soluzione rapida, efficace. In Inghilterra è anche stata istituzionalizzata. C'è una cosa che si chiama boarding school. È tipo un istituto penitenziario minorile, avete presente Mare Fuori? Però tutte le persone che lo frequentano sono in qualche modo imparentate con il Re Carlo e si vede. Quindi vostro figlio sarà anche il più bello della scuola. È un investimento sicuro. Quando io ero adolescente litigavo molto spesso con mia mamma. Mia mamma infatti voleva che io intraprendessi una carriera artistica, che io facessi la cantante, la ballerina, ma io non sono come mia mamma. Sono cool e trasgressiva e questo è il motivo per cui mi sono iscritta a giurisprudenza. È andata benissimo, come potete vedere. E subito dopo aver fatto giurisprudenza ho deciso di trovare un lavoro, che è il momento più traumatico della vita dopo l'adolescenza. Perché praticamente è come l'adolescenza, ma ripetuta più spesso, è come l'acne, insomma, no? Si ripresenta nel momento peggiore della vita. Tu hai una cosa importante da fare e a un certo punto diventi un unicorno. Hai un brufolo esattamente qua. E ho avuto a che fare con delle figure mistiche. Non so se le avete presente, le human resources. Sapete cosa sono? C'è qualcuno che lavora nelle human resources? Oh, allora siete davvero delle brave persone. Ah sì? Oddio, mi dispiace. Quindi c'è una larva di human resources. Terribile. Beh, in italiano human resources lo possiamo tradurre con tagliatori di teste. Ma a volte decidono di farti ancora più male. Ti fanno un colloquio, che ora nel 2023 non è un colloquio, no? È una cosa che va per step, per gradini. Fai un primo test psicoattitudinale, tu devi fare il magazziniere, ma comunque test psicoattitudinale non lo balzi, poi devi fare un test sulle competenze, poi devi fare un test inglese, poi un triplo salto carpiato, e dopo tutto questo loro ti risponderanno: il suo profilo è molto interessante ma non rispecchia le esigenze della nostra azienda, provi a rimandarci il curriculum tra qualche mese. Che suona molto come quando il tuo fidanzatino al liceo ti diceva: amore, il problema non sei tu, sono io. Ci credo. Ci credo, il mio fidanzatino del liceo si chiamava Michael e la cosa migliore che abbia fatto nella sua vita è stato ottenere il perdono giudiziale. Perché mentre tutti gli altri spacciavano, lui vendeva Rolex contraffatti nel parcheggio della scuola. Io direi che ci vuole anche solo un applauso per l'impegno di Michael. Però l'ultimo colloquio che ho fatto è andato un pochino meglio. Mi sono presentata da Michael, che mi ha fatto questo colloquio e mi ha detto la prima frase sincera nella nostra relazione. No, guarda, non ti posso assumere perché tu sei una quiet quitter. E io, oh, wow, figo. Cioè, suona benissimo quiet quitter, no? Quindi ho fatto quello che qualsiasi persona razionale avrebbe fatto. Sono tornata a casa e ho chiesto a ChatGPT che cos'è un quiet quitter. E ChatGPT, che non si discute, dice sempre la verità, ha tirato fuori una foto di Riccardo Scamarcio. E io me ne sono un po' presa a quel punto, perché non pensavo di essere scarsa a recitare, che cazzo! Però l'ho presa bene, l'ho presa con filosofia, e quindi ho aggiornato il mio curriculum e ci ho messo una foto di Riccardo Scamarcio, perché è troppo bello. Dopodiché, comunque, ho deciso di mettermi un pochino più di impegno, di effettivamente migliorare il mio curriculum. E ho scoperto che è pieno di corsi online, che ti insegnano cosa devi fare per valorizzare il tuo curriculum. E ho trovato questo corso tenuto da un tizio che mi ha detto che lui non mette nel curriculum soltanto le cose attinenti al lavoro, ma mette anche delle cose esterne al lavoro che però dimostrano che lui è una persona caparbia, che si impegna. Lui per esempio scrive canzoni da un sacco di anni, proprio centinaia di canzoni, e non è mai riuscito a farne un lavoro, insomma non è molto bravo, è arrivato solo quarto a Sanremo e è ultimo, ragazzi, ultimo è arrivato quarto a Sanremo. E allora ci ho pensato, e anch'io sono bravissima in una cosa, perché non ho mai, mai smesso, è 10 anni che fumo. E allora ho deciso di metterlo a curriculum, anche se cioè, ho dovuto mentire un pochino, in realtà per un anno ho smesso, però l'ho messo subito dopo buone competenze del pacchetto Office, così una bugia più grande annulla la bugia più piccola. E facendo questa operazione per migliorare il mio futuro e finalmente avere quel lavoro da magazziniere, ho pensato che i ragazzi che sono stati adolescenti sotto il Covid hanno avuto una vita molto, molto migliore di noi. Soprattutto i ragazzi che fumavano sotto il Covid. Perché non so quanti di voi fumano qua dentro. O hanno fumato quando erano piccolini, ok? Mi potete capire allora su questa cosa. Quando tu fumi da ragazzino, a un certo punto dovrai tornare a casa, si spera. E quindi hai le mani che sanno di fumo. E cominci a schiaffare la tua mano addosso a tutti i tuoi amici. Scusa, sa di fumo, sa di fumo. È una roba imbarazzantissima da fare, terrificante. Ma i ragazzini che erano adolescenti sotto al Covid potevano usare il gellino per le mani, no? Che sa di benzina. Quindi i loro genitori al massimo pensavano che fossero dei terroristi. Ma non avrebbero mai pensato che loro fumassero. È un vantaggio incredibile. Però su questo si dimostra sempre un luogo comune, che le ragazze sono molto, molto più avanti dei ragazzi, perché loro non pensavano soltanto alla questione mani che sanno di fumo, ma anche alito che sa di fumo. Quindi, all'incirca metà serata, tu vedi un paio di ragazzine, 15 anni circa, che si nascondono dentro ad un vicolo senza farsi notare e dicono «Tiralo fuori! Tiralo fuori!» Tu vedi una delle due che comincia a cercare nella borsa e tira fuori un profumo e comincia a spruzzarlo in bocca all'altra ragazzina. Così che non si rendano conto che fumava, no, perché ovviamente tua madre ti vede tornare a casa alle 2 di notte, sudata, dopo essere stata in discoteca, in minigonna, con le calze strappate, il trucco sbavato. E ovviamente sentendo il tuo alito che sa di bonbon, malizia allo zucchero filato, non avrà nessuna preoccupazione di quello che hai fatto quella sera. Risolverà qualsiasi problema. E invece no, io fumo ancora di nascosto da mia madre, però questa sera mi sono, diciamo, ho messo un po' in crisi questa cosa, per cui sono ancora più a disagio. E su queste note vi saluto, grazie mille. Anna Carrara, giusto? Sì, no, adesso sono rincoglionito io. Come vedete il mio socio non c'è, perché oramai lui è un mezzo ubriacone, quindi sta fuori, morirà di freddo. Sì, scusami, sono stato fin troppo gentile, è un ubriacone totale, quindi ogni tanto se sentite la sua mancanza urlate Valerio, Valerio, fate come vi pare. Adesso andiamo avanti, come sempre questa serata è diversa dalle altre, perché appunto noi non prendiamo tutti, noi selezioniamo... E non c'è da ridere se io dico una cosa del genere, perché suona ironica. Noi selezioniamo e abbiamo due ragazzi che tra la Croazia e il Giappone vanno fortissimi. Sono qua stasera, sono già venuti, ormai sono un po' di tempo che si fermano qua a Milano e ci deliziano con le loro performance. Sono performance dadaiste, futuriste, approssimative. Quindi vi chiedo... Tanto calore, non vedete queste cose dappertutto. Chiamo il primo, un po' un eroe nazionale, un poeta, con il male di vivere, oserei dire, vero? E lo fa venire anche agli altri. Esattamente, è il male di vivere per osmosi che porti. Vi chiedo, spellatevi le mani per Romualdo Grieco. Serve il leggio, Romuà? No, non c'è bisogno del leggio. Ti vedo confident. Non c'è problema, tanto al massimo tirerò fuori il cellulare. Fai come reputi opportuno. Non l'avete sentita, signori? Sperate che non tiri fuori il cazzo, perché lui ha il tono di voce basso. E purtroppo certe battute si perdono. Ed è un peccato. Vi chiedo attenzione adesso. Non stiamo... Se no, andate davvero a Zeliga, al Che pensi mia. Tu chiamati il tuo pubblico quando. Perfetto. Comunque, sì, era una buona idea andare allo Zeligo, al Che pensi mia, e a non vedere me che mi tiro fuori il cazzo, insomma. Perché questa era la battuta. Infatti non garantisco, quindi nel caso, se volete scappare, questo è il momento. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Romualdo Grieco, come avete sentito, e sono single e quindi sono aperte le candidature per una relazione con me. Non vi vedo incominciare a tirare fuori i fogli perché ho i cellulari. Perché i fogli? Si dovrebbero appuntare il tuo numero su un pezzo di carta. Allora, scusa, sembra un appuntamento del 1970, tutto qua. Serve un curriculum, cioè insomma dovete incominciare a scrivere il vostro curriculum relazionale che poi mi lascerete dopo. Ah. Allora. Nessuno che ti... Vabbè, nel senso, potete inviarmelo anche via mail a romuald@hotmail.it, oppure anche su Instagram, oppure non lo so, scrivetelo sul telefono, basta che non lo fate vedere al vostro partner, penso voi due. Sta diventando un po' contorto tutto questo. Sì. È partito come... sembra una roba a tre che vuoi fare. È quello il tuo scopo, vero? Ovviamente, va bene anche 4, 5. Ma sì, più ce n'è meglio è. Aggiungi un posto in tavola. In tavola. A tavola. No, scusa, non volevo fare quello delle preposizioni, però. Mi dimentico anche dell'italiano quando sono sul palco. E niente, quindi appunto ho incominciato a preparare il vostro curriculum, ma da buon datore di lavoro che vi deve esaminare, vi devo mostrare le mie referenze e quindi vi leggerò la mia bio di Tinder. Posso solo dire che sei l'unico under 30 con la custodia libro che io conosca. Sono vecchio dentro, lo so. L'avrei mai detto. Allora, quindi cominciamo. 1,78 m di sogni disneyani e playlist metalhead sdolcinate. Attratto dall'arte, dai libri e dalle grandi saghe. Allora, qua intendevo tipo Star Wars, Harry Potter, Il Signore degli Anelli. Però diciamo che ho sbagliato a scrivere. In realtà intendevo le grandi seghe. Sai, quindi... che ci stavo pensando anch'io. Sì. E ho detto, chissà se ha fatto il gioco di... l'hai fatto. Ovviamente. Bravo. E per citare gli In This Moment, che sono una band metal con cantante Maria Brink, che, giusto per descriverla, cioè è come se fosse la Lady Gaga del metal. Quindi immaginatemi in questo momento con tipo i fucili che escono dal seno del tipo, che incominciano a sparare tipo Aleandro. Qualcuno che si ricorda quel video? Avevo detto che era contorto. Sì. E quindi... Puoi rifare ancora Aleandro, perché non è per niente male. Un altro me l'accenni, pum pum. Aleandro. Basta, fai tu adesso. Aleandro. No, basta. Ok, va bene. Quindi, per citare gli In This Moment, I can't deny, I doubt without this, make me feel like a god, music, love and sex. Se mi offrite una cioccolata avrete molti punti a favore. Il resto potete provare a scoprirlo. Allora, partiamo dalla prima cosa importante da cui si capisce da questa bio. Sono povero come la merda, la cioccolata me la dovrete offrire voi. battuta che non è entrata, no. siete tutti poveri eventualmente. Ma credo allora, sia più una questione euro, de... 2 euro per una cioccolata? No, eh. Quindi, vabbè, ma pezzi di merda. Vai, vai. E... poi 1,78 m di sogni disneyani. Allora, questa cosa può sembrare una cosa, diciamo, dolce, ma in realtà è un monito, perché appunto le mie aspettative sono alte, le mie aspettative relazionali, mi aspetto sempre una principessa, ma io qua non ne vedo, forse Valerio, magari Andrea, però altre non ne vedo, e io mi aspetto sempre una principessa sul mio pisello, ma niente. Scusami, tu hai fatto prima una battuta omofoba, e adesso ti assumi la responsabilità, e poi anche sessista il tuo pisello. Perché il tuo pisello? Perché il tuo pisello doveva entrare in questa conversazione? Perché c'entra sempre. Bravo. Lui si infila sempre, ovunque. Non è preparato questo. Io sto cercando di conversare con lui, e lui qualsiasi cosa dica va sempre più sul piccante. Esatto. E quindi... e quindi niente, cosa stavo dicendo? Sì, allora, principessa sul mio pisello. L'hai ripetuta due volte. Allora, veniamo alla parte importante, ossia alla citazione. Le cose che mi fanno sentire come un dio sono la musica, come ho già detto sono metallaro, e quindi... il mio udito è pessimo, cioè logorato da praticamente ogni giorno che ascolto musica in cuffia ad alti decibel, e quindi non sentirò un cazzo. Quindi se mi chiamerete perché avete bisogno di aiuto, io probabilmente non vi sentirò. E se dovessi sentirvi mentre qualcuno vi aggredisce, probabilmente Valerio... dice sì Valerio, tra l'altro. È probabile che io cercherò, diciamo, di organizzare un frisam con l'assalitore, più probabile, ma solo se è un figo. Ma perché? Tutto questo delirio? Ma no, perché? Non eri così le prime volte? Sono, è il pizzetto. Sono peggiorato. È il pizzetto che ti fa satanico. Ah. No, è la mia vera natura. Immaginavo, speravo sì. Di no, ma più ti vedo. Sì, sono venuto qua sul palco a prendere per il culo i miei nonni. Di fronte ai tuoi nonni, tra l'altro. Esatto. Quindi, che ridevano come matti. Esatto. A tutte le vostre robe strane di famiglia. Esatto. Quindi, hai già capito che la mia famiglia è messa male, io sono il frutto definitivo. Ma sai che c'è sempre quello della stirpe che può rompere, come dire, la legacy, magari, che non funziona? Non sei tu. Esattamente. No, io sono quello che la peggiora. Ah, cazzo! Poi, continuando, appunto, music, love, come avete capito, ho tanto bisogno di affetto, quindi amatemi. Porca puttana. e poi sex, quindi sesso, giustamente ho bisogno di scopare, e quindi sono anche un morto di figa. Vabbè, va, amico mio. Nel senso, giustamente mi fa sentire come un dio. Ora, concludo il pezzo con... chiudendo la copera libro. Sì. Con le quattro fasi di un'eventuale relazione con me, così vi metto in guardia. E la prima è lo scambio di messaggi su Instagram, a cui comincerei a scrivervi. Vi scriverei praticamente ogni giorno e probabilmente vi arriverebbero un sacco di reazioni tipo a cuore, o cioè con, sapete, no, la faccina con gli occhi a cuore, oppure... la fiammella, che praticamente significano una sola cosa, cioè che vi monterei e vi smonterei come un mobile dell'IKEA, ma sarebbe una fase della relazione troppo, diciamo, acerba per rischiare una denuncia di molestia sessuale, e quindi al momento vi accontenterete, diciamo, di una fiammella. E non di una foto di cazzo. Posso dire, che pagherei oro per ricevere un giorno, anche fra tanti anni, nel cuore della notte, una fiammella da parte tua. Iscriviti a Instagram, sai quante fiammelle ti arrivano? Ah, te è andata a proposito male... di esami di costruzione. Scusa, esatto, tu ne sei esperto anche di quello, sì. No? Poi ci sarebbe la seconda fase, in cui appunto si incomincerebbe ad uscire assieme e io praticamente, visto che non è che veda così tanta figa, una volta che esco con una ragazza ce la faccio sentire al centro del mio mondo, diventa praticamente la mia principessa, scattano fuori frasi del tipo: hai fatto a pezzi la mia anima e l'hai ricomposta a tua immagine e somiglianza, cose così. Che cazzo vuol dire? Non lo so neanch'io. Ha mai funzionato sta frase? L'ho inventata sul momento. Ah, così, improvvisatore, sì. Non scrivi neanche più. No, non è vero, l'ho inserita nel pezzo giusto per fare... Dovevo sembrare provocante, ma mi hai smontato così la... No, la figo, ho fatto tutto io, infatti. Dai, un pochino era sexy come frase, dai, su. Ho visto, ragazzi, c'è una che si è buttata. Potete lanciare la vagina così, la bionda, se volete. Poi ci sarebbe la terza fase, che sarebbe... Sì. No, aspettate che si... Sì. Sì. Implorami di sborrarti in faccia, puttana! Ma no, okay? No, ma no, questa... ma no. Questa è la terza fase. Ma cosa mi rappresenta una roba del genere? Pensa che viene dentro adesso uno a caso così e tu la sborrami in faccia. Ma il contesto, non c'è più niente, vale tutto adesso. No. Fa la cacca, dai, caga. Caga lì sopra, cazzo te ne frega. Ma me... Scusa, l'ha chiusa, non lo sapevo. Se vuoi sborrare... No, non sborrare, no. Voi ragazzi, la vostra maniera di sborrare in giro. No. Vabbè, poi ci sarebbe la quarta fase in cui invece vengo lasciato perché scoprite che mando foto di cazzo alle modelle su OnlyFans. Solo per quello, Ti lasciano solo per quello. Vai, Sereno, che fino a come ti sei comportato adesso andava tutto benissimo. Esatto. Da manuale. Esatto. E quindi, niente, avete capito che sono un perfetto candidato da matrimonio. Mandatemi i vostri curriculum, seguitemi su Instagram, Void Reaching, e detto questo vado ad impiccarmi. No. Andiamo. Signore e signori, Romualdo Greco! E il motivo... Romualdo Greco! E il motivo per cui, viva Dio, c'è il 41 bis! Posso dire una cosa? Come Pippo Baudo l'ho scoperto io, questo ragazzo. Sì, sì. Academy di Valerio Erò. Tutta gente che ha fatto corsi di comicità da Valerio. Valerio non c'era quelle sere. Quindi sono un po' tutti autodidatti. Da dove arrivi tu, amico mio? Ma sono stato in giro, mi sono preso un vinello. Ho visto che la serata proseguiva bene. Ho deciso di arrivare io. Sai come proseguiamo adesso? No. Il dadaismo è solo iniziato. Ah, sempre Academy? Sempre Academy. Adesso, signori, si fa un salto in avanti di 30 anni. Robe che le abbiamo solo qua e solo qua. Signore e signori, il primo elemento a entrare nella storia dell'Academy... Sono in due, lui, questo e quello di prima, quindi... E lui è il prototipo! Fate un grosso applauso ad Antonio José Dante! Prendi pure quello, Antonio José o José Antonio. Ah, figa. E lui è del mestiere, scusatelo. No, ma che bello. Eccomi qua, anche oggi. Che entusiasmo stasera. Sì, oggi sono abbastanza entusiasta. Oggi... Hai bevuto, amico mio? No, sono lucidissimo. Hai pipato? No, neanche. Fai quelle robe come l'altro che sborri per terra? No. Vi vedete voi due fuori? Nella vita, intendo? No. Meglio così. Allora, io sono sincero, quindi dirò un po' di barzellette e vi dirò un po' di cazzate, così sapete a cosa andate incontro. Dirò una marea di cazzate. Sì, sì, ma lui si scalda. Tu sei abituato a sentire... Ma adesso sono proprio cose buttate qua. Fra un po' se si scalda, ragazzi. Eh sì, sì. Io altro che l'altro di prima. Sono old school, imitazioni e freddure. Proprio... Con cosa parti stasera? Parto con le freddure. Parto con uno che fa schifo per arrivare al cavallo di battaglia per ultimo. Però posso dire che non dovresti dirlo anche a loro che... Sì, il dovrebbe cavallo essere di battaglia... un giudizio che hanno loro. Allora, il cavallo di battaglia lo dico all'ultimo. Se le mie prime freddure fanno cacare all'inizio, cioè non vi scandalizzate, ecco, abbiate pietà, sono un pivello. Non vabbè, sono Claudio Bisio, devo fare ancora un bel po' di strada, quindi... Anche tu come esordio, amico mio, vi presentate in una maniera, però... No, no, ma su, dai entusiasmo. Va bene, grazie, grazie. Succede niente, succede niente qua. Ma che bene, gente che abbiamo. Io comincio, eh. Ok, hai visto il mille piedi? Hai visto? Cioè, caricatela. Hai visto il mille piedi? Sì, è andato fuori a fare 2000 passi. Spiegala, perché secondo me qualcuno... Il mio commercialista è molto triste, il commercialista. Aspetta, commercialista è molto triste? Sì, perché è partita IVA. Ah! Sì, IVA è partita IVA. Ma era l'amica, la moglie, la figlia? No, era, sì, era la sua moglie, la compagna di vita proprio, la partita IVA. Ma è una crisi passeggera? Sì, sì, passeggera, poi torna, è partita per le vacanze, poi torna. Dove è andata? Boh, in qualche paradiso fiscale. Bravo, bravo, da San Marino. Bravo, non sei Bisio, sei meglio. Grazie. Leone, vai. Ok, adesso arrivano i cavalli di battaglia, quelli belli. Signori, le ultime due. Sì, prima ho letto le impostazioni in inglese. C'era scritto setting. E allora mi sono chiesto, se c'è setting, poi c'è hotting, noving, dieching, undicing. Va avanti finché non si buttano. 12, 114. Ok, 12, 13, no, 14, no, no, 15, 16. Ti devo fare una critica. Ne abusi in questo locale di questa battuta. Mi rendo conto che tu dici è un cavallo di battaglia, perché privare il pubblico di... Molti non lo conoscevano. Ah, scusa, allora errore mio. Giusto. C'è il personaggio di Enzo Salvi. Questa con è l'ultima, Bondi. È l'ultima. Non l'ultima, è che la butti, sì, via così, come cazzo. È l'ultima. Un netto di crudo, dai. No, è l'ultima, sì, sì. Ci sono Enzo Salvi con Massimo Boldi. Ah, cinema. Sì, Enzo Salvi dice a Massimo Boldi: Duca, fammi il caffè. No, ma io non sono un duca, sono un ingegnere. No, Duca è Duca Pelli. Ma che, t'hanno trapiantato una chiappa o c'hai una voglia del prosciutto cotto in capa? Signori, è un pezzo di cinema. Cioè, che cazzo è? Niente. E allora Boldi risponde: ah, non è finita. No, Boldi, ah, no, non è finita. Attenzione. No, no, il bello deve ancora venire. Boldi dice: e perché ti chiamano Ercipolla? Perché te puzza il fiato? No, mi chiamano Ercipolla perché se te piglio te faccio piagne. Ma che film è? Mi sapresti dirmi? Il film, mi ricordo che si chiama Vacanze di Natale. Di che anno? No, Vacanze di Natale, vaffanculo, si chiamano tutti Vacanze di Natale. Mi stai provando a coglionare, dai. No, che non mi ricordo se fosse Vacanze di Natale 90. No, quelli sono Natale e Rio. No, quelle poi robe c'è, lì. C'è quello di Rocco Siffredi, Vacanze di Natale a 90. Ma adesso le stai facendo così a schiaffo? Ho improvvisato, mi è venuto in mente subito, no, ho detto, no, devo so dirla, che... devo dirla. No, no, a Carmelo Bene fa così. Ma cos'hai adesso poi? È finito quello? Adesso, no, volevo parlare un po'. Col cazzo! Di lavori. Allora, avevo pensato di, per arrotondare un po', di fare il food, street food manager and archaeology. Aspetta, street food manager e? Archaeology. Archaeology. Archeologi come archeologo? Sì. Che sarebbe tradotto vendere e castagne fuori dal Colosseo. Ci mancano dei pezzi, secondo me. Sì, però pensavo andassero a cattare nei bidoni dell'immondizia. No, io. Però la cosa che mi viene meglio, oltre a fare il comico, è il Free Product Testing Self Manager. Free Product Testing Self Manager. Sì. Qualcuno ha idea di cosa sia sta roba qua? Nessuno? Ve lo dico io. Aspetta, dagli il tempo, non è che capisco che c'hai la chiusa qua che no, viene giù tutto, però... se volete sapere cos'è il Free Product Testing Self Manager, ve lo dico, però indovinate un po', tirate un po' a indovinare, dai. Aspettiamo quanto, un 20 minuti? Non lo so, diamogli tempo. No, io non ho fretta. Ma manco io, guarda. Cosa fai di bello dopo? Non lo so. Penso che mi andrò a coricare. Si va a cucare un po' di passerina? penso che mi trovo a casa a dormire. Bravo, così comunque mi piace. Sono tutti test per questo ragazzo che deve arrivare al matrimonio, che sarà... Non mi guardare strano. Se ci arrivo al matrimonio, non lo so, magari resto solo tutta la vita, non lo so. Sai che non ho capito una parola. Se ci arrivo al matrimonio, magari resto solo. Sei giovane, quanti anni hai? 26. Rimarrò. Perfetto, adesso è il momento, vedi che si sta perdendo il pubblico. Svela, svela l'arcano. Vabbè, comunque sia, il Free Product Testing Self Manager, cioè scrocco e non faccio un cazzo. 30 minuti per sta chiusa. Sì. Mi viene proprio bene fare un cazzo. Si vede che sei dell'Academy di Valerio Aero. Sì, poi vabbè, avevo in mente da adolescente di fare il dog sitter, che sapete cos'è. Però il dog sitting comporta anche il organic waste removal and cleaning. Cioè pulire il culo del cane e raccoglie merda. Perché ogni tanto ti viene al romano? Non so. No, no, non ma so sei, non hai cose... No, no, no, no, non so perché. È la passione per Christian De Sica. Può essere, di tanto guardare... No, no, ma anch'io stessa passione, siamo molto simili di quanto tu creda, ahimè. Sì, però per il momento faccio il whatever happens in life, push forward. Ma io vorrei capire se queste cose qua sono cose del pezzo o stai andando... No, sono cose del pezzo, sì, sì. Ah, no, perché se pensavo avessi tipo un delirio di onnipotenza, no, no, un episodio di mitomania... No, no, whatever happens in life, push forward, cioè tiro avanti. Tu sei madrelingua, vero? No, no, no, ma va. Non so, mi sa che da piccolo ho battuto la testa molto forte, quindi adesso sono un po' eccentrico. No, no, ma non è una cosa meravigliosa. No, mio padre mi fa: devi fare teatro, devi fare il comico. E infatti, eccomi qua. Ringraziamo tuo padre. Eh sì. No, no, cioè, è arrivato. Qua, qua. Perché se dice fai il comico e poi non viene a vederti, no, c'è, no, tanto di presa è in l'unico giro. Che viene a vedermi. I miei amici: vogliamo venire, ci inviti? Poi un cazzo, io ho detto l'indirizzo del posto, no, un cazzo, vabbè. Allora niente. L'invito è sempre valido, però... Prossima volta che vengo li sputiamo in faccia, capito? Giusto, hai giusto. Una chiusa eclatante? Una battuta... No, allora io avrei... Due, tre imitazioni ce le fai. Oggi, no, sai che non sono carico per le imitazioni, oggi no, non ho nel repertorio. Forza. No, che non ho, oggi nel repertorio purtroppo di imitazioni... No, no, dipende, non, no, è che vai da Morricone. Non voglio ripetere sempre le stesse, però, cazzarola. Però una... Una, quella che mi viene meglio. A quello dici tu, io non mi permetto di darti giudizio. Va bene. Sai. Crivio, mi consente. Va bene, chi è? Bonolis. No. Costanzo. No. Fammi sentire ancora la voce. Di Costanzo. No, di Costanzo, di questa persona qua che sta imitando. Crivio, mi consente. Dico solo Crivio, mi consente. Sì. L'Italia è il paese che amo, questa non potevi impararla. Un'altra frase non potevi, eh. Guarda, sì, quella della mela che sa di culo. La vuoi sentire quella della mela che sa di culo? Ragazzi, la chiudiamo con la mela che sa di culo. Prego. Sì, a questo qua gli do la mela e gli dico: sa di figa. E me la ridà schifato. No, puzza di culo. Ah, mi scusi, la giri. Secondo me è invertito la chiusa, sì. Ma comunque il senso è meraviglioso lo stesso. Sì, qua sono dei lifting questi. Sì, infatti stai per avere una paresi facciale. No, se sì. Non hai più niente, io ti congedo, ma me lo devi dire no, tu. No, sì, eh? Sì, e io ho finito le battute che avevo in serbo, le ho finite. Ora comincio con quelle in croato. Ah, scusa, quelle in? In croato. Ma infatti no, adesso no, ti mandiamo. È una battuta stupida. Facciamo fare finire. La tournée a Teramo Aldo, vi fate tutta Croazia, i Balcani. Lì c'è gente che vedete come ridono. Sì, ma rido per pietà, mi vedo, dico, sto povero pirlo, dai, rido giusto per farlo contento. Bottigliate vi danno, sì, sì, sì. Torni senza orecchie. Ma spero che mi lancino le bottiglie vuote almeno, mi porto a casa qualcosa, mi lancio i pomodori, mi faccio una bella una pasta alla matriciana. Poi fate una bella macchinata voi indietro con i cocci di no, vetro. Se mi lancio le verdure, mi faccio il soffritto per il ragù. Io ormai sì. Qualsiasi cosa dico tu potresti andare avanti 20 minuti. No, sì, sì. Ve l'ho detto che a un certo punto partivo e non lo fermai più. No, no, per la vostra gioia me ne vado. No, no, no, non dire così, non dire no, no. Oggi non c'è il dissing a quello famoso lì, oggi non c'è. Sono due spettacoli che ho lasciato no, stare. Dai, allora poi davvero chiudiamo qua, sennò poveretto no. Facciamo fare tutto lui. Però lui è un po' di volte che offende Lino Guanciale. No, avevo criticato una sua serie TV chiamata Sopravvissuti, perché alcuni personaggi erano stronzi, no? Beh, tu facevi proprio il suo nome. No, ho detto che lui era uno dei pochi che era a posto di testa in quella serie. Gli altri erano un po' stronzi, mal cagati. Male proprio. Io ricordo che tu dicesti Lino Guanciale è un uomo di merda. No, quello non l'ho detto. Poi lui ha sentito che parlavo male della sua serie e mi ha fatto il dissing. Mi fa: almeno io sono un attore celebre, non come te, comico da quattro soldi. Ma come ha fatto a sentire che tu parlavi di lui? Perché dopo il primo dissing se l'ho voluto sapere, quindi... Ma come? Fisicamente? Io ho pubblicato poi il mio video e l'avrà visto, sai come... Cioè, quindi Lino Guanciale ti segue? Poi un'altra serie piena di stronzi, 100 vetrine, che onestamente... Ma non va più in onda da 14... No, perché quando ero piccolino, quando ero adolescente, guardavo 100 vetrine perché era pieno di figa, e per quello... Capisco perché tu e l'altro ragazzo avete quella passione lì. No, vabbè, ma anche per la figa da prenderla un po' così contro voglia. No, ma invece le ragazze guardavano 100 vetrine perché c'erano dei bei ragazzi. Infatti, qua in Italia, se vuoi fare un complimento a un uomo, gli dici sempre un attore di 100 vetrine. Perché qua il complimento che va più di moda in questo paese è quello. Ma sai che è come dire che dimmi il nome di una bella donna, Claudia Schiffer. Cioè, non si fa da 25 anni un paragone con 100 vetrine. Davvero? Che signore frequenti delle settantenni? No, che... E che insomma andava di moda e quindi... Ti dicono che bello sembri Luca Ward? Ti dicono così a no, te? Luca Ward non mi hanno mai paragonato detto. Lui, no. Mi hanno paragonato a quello di Twilight perché sono pallido. Mi hanno detto che se a Robert Pattinson, me coglioni. Boh, mi hanno detto che se cadessi in mezzo alla neve che non mi troverebbero più perché mi mimetizzo. Mi hanno detto che non si capisce dove finisce la pelle e dove comincia la maglietta. Signori, poesia, non battute. No, è vero. Poi quando c'era il Covid avevo la mascherina bianca e mi dicevano: cos'è? Hai perso la bocca, come Keanu Reeves in Matrix, non hai più la bocca. Cioè, tutto perso. Arrivava uno e ti diceva: cos'è? Hai perso la bocca come Keanu Reeves in Matrix? Esattamente scena, tutta sta quella frase. Quella scena dell'interrogatorio che gli cucciolo la bocca con della pelle, quella famosa scena lì, ecco. Sì, dicevano che con la mascherina bianca sembrava che avessi tutto pelle e neanche naso. Così mi dicevano. E tu cosa dicevi? Io dicevo: sì, lo so, ogni volta me lo dite. Mi dicevano: fatti una lampada. No, mi dicevano: fatti una lampada. Io dicevo: tu fatti una lampada di cazzi tua. Signori, e su fatti una lampada di cazzi tua congediamo José Antonio Dante. Grazie. Adesso breve, c'è il mio amico. Ah, prima ho detto una cosa, Antonio José Dante, signori. Posso dire che per me potevate continuare all'infinito. A me sembrava di star guardando aspettando Godot. Ma se vuole, adesso noi abbiamo in programma, però stiamo pensando a una serata folle dove José Romualdo e Braccio, signori, quello che succede succede. Se si entra non si esce fino a fine spettacolo. Allora ragazzi, qua capiamo che qualcuno voglia non venire, ma se venite, del pubblico, quanti vorrebbero una serata mezz'ora José Dante Romualdo Grieco? Beh, è combattuta. Ci sono dei timidi là dietro, loro no. È il bastardo là dietro, è il bastardo. L'avevi te? A me o lui? Guarda, quando si risponde alla violenza con amore si vince. Viva la pace. Ragazzi, abbracciamoci. Perfetto, grazie. Voi no. Vai! Mettere delle rose sul palco e fare come Blanco, per restare in tema. Potrei mettere delle rose sul palco e fare come Blanco. Cioè, quindi tu hai pensato di interrompere per... No, meglio di no. Meglio di no. Era una cazzata. No, no, ma l'idea non è neanche male di per sé. Non ti immagini? Viene un casino. Prossima volta, porta. Ma tante, spendi 2000 euro di rose. È vestito di bianco come lui, proprio. Esatto, con le magliette corte fin qua, ti ci vedo. L'interrogazione parlamentare. Tra breve avrai la tua serata qua, te lo prometto. E signori, venite. Io avevo detto a una persona che sapeva qualcosa, una roba. Spero che quella persona stia sentendo, perché non faccio più, quindi lui può fare quel cazzo che vuole. Non ho capito se ha capito, spero abbia capito. Porca troia, che spavento! Ma sei stronzo! Ma mi hai fatto che cagarsciò? Due anni di te. Ma sei un idiota, se uno entra così probabilmente non deve farsi annunciare. Cioè, uno entra a schiaffo, porco Giuda, per fare la roba. Alberto Vitale, dove stai? Che vi abiti? Ricominciamo, vai da fuori. Ah, che bello! No, va bene. Buonasera. Signori, abbiate un po' di timore. No, a parte il timore. Allora, no, sono qua per lanciare la protesta contro il 41 bis. Contro il 42, Lambo e il Terno. Siamo qua per dare le informazioni dove faremo i nostri convegni, le nostre manifestazioni, cui voi potete partecipare, se volete, per protestare insieme a noi. Tutta roba assolutamente pacifica, come tutti i nostri movimenti. Allora, il 18 saremo a Roma, a una processione di suore carmelitane scalze. Noi andremo lì con i nostri anfibi e vediamo se restano scalze anche la prossima volta. Poi andiamo, ci piace andare la settimana prossima, siamo insieme ai Boy Scout, ci piace vedere i Boy Scout che aiutano le vecchine ad attraversare la strada. Noi andremo lì con le nostre macchine per rendere il compito un po' più difficile. Poi siamo al circo, se vi interessa, andiamo al circo, avete presente, dove ci sono i clown che si danno le botte per finta. Noi andremo a dare un tocco di realismo alla scena. Dovremmo essere poi anche all'Avis la settimana prossima, dove abbiamo saputo che c'è un grande bisogno di sangue. Scusate, andate a donare il sangue quindi? Noi andremo a procurarne. Nel senso che picchiate? Nel senso che? Picchiate? Sì, sì, sì, era finita lì la battuta. Sì, sì. Per sicurezza. Poi, la settimana prossima siamo a un evento Eventbrite, dove si esibisce l'Academy, ma abbiamo deciso di avere pietà, perché penso che basti la serata. E poi se vi interessa siamo alla riunione di Alcolisti Anonimi tra un paio di settimane, andiamo a spiegare loro che l'alcol fa male alla testa. Fa male al fegato. Fa male anche alla testa se prendiamo in mano noi le bottiglie vuote. Poi siamo, ecco, abbiamo tra un mesetto siamo a un paese qua fuori dove c'è un concorso di collezionismo. Noi andremo a presentare la nostra collezione di bare di personaggi famosi. Noi raccogliamo bare di personaggi famosi che sotterriamo dalla terra, abbiamo i grandi presentatori in questo momento. Ah. Sì, sì, abbiamo già preso la bara di Vianello, la bara di Corrado, la bara di Mike Bongiorno e da poco abbiamo preso anche la bara di Pippo Baudo. La Pippo Baudo non è morto. Ecco cos'era quel grattare quando abbiamo chiuso la cassa. Io non so cosa rispondere. Io so solo che devo dire delle cose in certi punti, quindi rido anche io. Però io non mi ricordo, peraltro. Va bene. Settimana prossima siamo anche a vedere all'Arcimbolti il gobbo di Notre Dame di Fedez. Ma scusa, Fedez non ha mai fatto il gobbo di Notre Dame? E dopo che gli avremo spezzato la schiena potrà fare soltanto quello. Ma l'ho chiuso perché non me ne ricordo. Andate in giro a menare. E niente, no, la settimana prossima infine siamo, questo è molto importante se volete partecipare, siamo al concerto di Laura Pausini. Andate a spaccare tutto finalmente. No, andiamo perché ci piace. La solitudine tra noi. Signore e signori, Alberto Black Block Vitale. Bravo, stai qua che non mi ricordo chi c'è, prendo la scaletta. Alberto Vitale, ma scusami, aspetta. Ma perché organizzi l'entrata a schiaffo senza dirmi un cazzo? Ho capito, ma poi non si deve lamentare. Sai perché forse a te non lo dicono perché tanto dicono che ti dimentichi, quindi comunica con me di solito. Quello è vero, quello è vero. Sono la persona più responsabile ma dei due. Quanti ne abbiamo ancora? Ma ne abbiamo tre. Porco Giudo, ho fatto dai, un casino. Dai, dai, che andiamo alla fine. Dai che vuoi andare a letto, hai da fare. Due coglioni, dai. Vabbè, guardate il professionista. Anima e cuore ci mette in questa serata il ragazzo. Finisce di organizzare la sera, organizza subito quella della settimana dopo. Signore e signori, abbiamo a ultime due new entry e una persona che è già venuta diverse volte. Ha un cognome bellissimo questo ragazzo. Lo chiamo, vi chiedo un grande applauso per Umberto Spazio. Ah, grande! Buonasera. Ho scoperto una cosa incredibile. Mi ha sconvolto la settimana, ma ha cambiato la vita. Cioè, per me ci sarà un prima e un dopo l'aver scoperto come si scrive l'abajur. Non è la staccato abajur. No. Ho scoperto a 30 anni, mi sono chiesto, ma allora qua, chissà quante altre parole non so come si scrivono. Ad esempio, l'asciuco. Non è L apostrofo asciuco, no, no. La casa non è L apostrofo a casa. Vabbè. Mia mamma mi diceva, Umberto, a casa. Vabbè. Questa non la facciamo mai più. Vabbè, abbiamo. Ma facciamo un passo indietro, di qualche anno. Mi stavo facendo la doccia e mi sono chiesto, ma perché shampoo e balsamo sono separati? Sarà forse un complotto per farci pagare due flaconi? Sarà forse il segreto degli egizi per le piramidi? No. Detto, uniamoli, mettiamoli insieme. Mal che vada, ho sbagliato. E ho sbagliato. No. Perché? Mal che vada, ho sbagliato è il mio motto nella vita. E come ti chiami, scusa? Mattia, tu mi chiederai come è diventato il tuo motto. Mattia, per favore, le domande alla fine, perché sennò non... ok? Cioè, come chiedere perché certe cose hanno un certo nome. Cioè, non è che Maria, arriva l'arcangelo e dice Maria, sei incinta del figlio di Dio, Giuseppe, è la Madonna. Ecco, spiegato perché è la Madonna. Comunque, ma che ho sbagliato? Perché? Giocando a scopa, a carte. Per chi non conosce scopa, è semplice. Ci sono delle persone con delle carte in mano e lo svolgimento è come qualsiasi altro gioco di carte. Ci si insulta per il culo che ha l'avversario. Ok? Quindi, se la partita è molto bella, si arriva alle mani, fino a cavarsi gli occhi. Da qui il famoso detto, la fortuna è cieca. Ma io non sapevo giocare a carte, quindi ci mettevo un sacco a giocare, ok? Quindi a scegliere che carta mettere giù, e un mio amico, detto lo zio, perché si chiama lo zio non è rilevante, non è che possiamo spiegare i nomi di tutti quanti, cioè stiamo, ok? Quindi si è spazientino e dice, dai Umberto, gioca, ma che vada, hai sbagliato. E quindi io ho giocato tutta la partita così, a cuor leggero, cioè, e ho vinto. E quindi, perché anche se non ho avuto un sacco di culo, quindi tutti incazzati, volevano menarmi, per quello uso gli occhiali, perché non si picchiano quelli con gli occhiali. La fortuna è cieca, io no, ci vedo benissimo. Anzi, ci vedo talmente bene che io vedo attraverso le cose, cioè, vedo attraverso i tuoi vestiti, non ti preoccupare perché non è che ti vedo, perché vedo anche attraverso di te se vedo attraverso le cose. È un potere di merda questo qua, cioè non, perché poi vedo attraverso anche il colore di te, vedo il muro, vedo attraverso il palazzo, finché vedo una pecora e mi viene fame. Per chi non l'ha capita, questa qua fa riferimento a una battuta che facevo a un pezzo precedente, però se non c'eravate, non... niente, vabbè. Comunque, mi chiamo Umberto Spazio. Perché? Mia mamma, quando sono nato, è andata all'anagrafe, ha detto, come lo chiamiamo? E fa, Umberto Spazio, cioè perché Umberto, poi nome, poi cognome, cioè non è che è tutto quindi, merda. Però l'anagrafe era di fretta, fa, ok, via, prossimo. E quindi mi sono tenuto questo nome qua. In realtà dovevo chiamarmi Umbertone, cioè né di cognome. Adesso ha senso perché ha detto spazio in mezzo. Se non vedo che lo chiamo Umbertone e niente. Quindi, perché mio nonno bisnonno era piemontese. E diceva sempre, né? Quindi è andato all'anagrafe a registrare mio nonno e fa, buongiorno, né? Giovanni, né? Così, e quindi via, anche quello lì. All'anagrafe sono tutti di fretta. Quindi dovete... In realtà... Quello lì doveva chiamarsi Giovannino, perché suo nonno diceva sempre, no? Capito, no? Ok. Grazie. Giovannino. Quindi, sono andato indietro a scavare, indietro, finché... Ho trovato addirittura un Milo, minchia che non mi merda, l'ha scelto la mamma. Ok, questa qua è anche un'altra che non facciamo mai più. Ok, sono andato indietro a scavare, fino a trovato il cognome originale, la Bajur. Perfetto. Grazie. E ho finito. Breve, ma ho finito. Spero vi sia piaciuto, mal che vada, ho sbagliato. Valerio, grazie. E Andrea. Umberto Spazio! Venga, Fabio, ha finito, non t'ho visto, ho detto che... Ero lì, ero di fronte a te a fare una sigaretta, pensa dove ero. Ho avuto paura di dover salire io e gestirla. Sai che adesso scendo, ti lascio su 5 minuti, vediamo cosa succede? No, non ci voglio. Però il tuo pubblico ti chiama. Dai. Allora, il pubblico è lui, il tuo amico... Gente che paga. I baristi a cui sto sui coglioni. Domandati come mai. Baffo, sei un pezzo di merda. Guarda come ti guarda. Con gli occhi dell'amore. Con un coltello in mano. Ma che comunque c'entra con l'amore. Perché in quale storia non si utilizzano i coltelli? In quale sana storia non si utilizzano? Nessuno utilizza i coltelli nella propria storia. Oh, dobbiamo rivedere un po' le cose, eh? Amore, forse siamo un po' bizzarri noi. Secondo me sì, eh. Capite? Te li tiri fuori i coltelli, di la verità. Porca miseria, che faccia da matta. Quella, altro che coltelli, quella secondo me fa le torture svedesi. Come sono quelle svedesi? Non lo so, ho aperto una battuta ma non la so continuare. La vuoi chiudere? Speravo dicessi sono quelli che devi montare da solo, però mi sembrava troppo banale. Speravo però rispondessi così. E invece no. Manca una battuta di merda. Lasciamo con un sospeso. Con i tre puntini alla Cohen. Che ci porta a quello che è poi il senso della vita. Barcollare. Il sospeso. Se ti chiamassero Ballando con le Stelle, la tua risposta sì o no? Sì. Potresti vincere perché io vedo che la coordinazione c'è tutta. Io andrei a Ballando con le Stelle per Milly Carlucci. Adesso ci divertiamo. Cosa ne pensi di Milly? Milly Carlucci io me la ricordo nei film porno anni 70 ed è un mio sogno proibito insieme a Milly D'Abraccio. Due Milly? Poi, le Milly, sì. Le Milly. Signore Milly. C'è anche Milly Moratti, ci suggeriscono. Tutte della stessa età più o meno a spanne. Oh, le sessantenni che si chiamano Milly, cosa avevano di particolare? È una domanda? Credo... No, vorrei dire qualcosa, ma sai che non... Ma chiamiamo il prossimo comico. Esatto. Chiediamolo a lui. Sì, lo so chi è. Vitale! No, non è Vitale. Vitale è già venuto. Tu gli hai bruciato l'ingresso. Perché non mi hai conosciuto. Porca miseria, ma mi hai fatto una paura, lo sai? Ah, pensavo... Non lo sapevo dove salire, ma mi ha fatto paura davvero. Beh, cazzo, un cuor di leone sei tu. Eh no, io sono sempre stato un codardo, ho sempre detto. Con orgoglio, però. Un codardo, sì. Cioè, la D che è lunghissima. Un vigliacco totale. Ma chi cazzo è il prossimo comico, porca madonna? No, si era detto tutto. Si può sborrare per terra, ma non fatemi sentire bestemmie che ci tengo. Ma signorina. No, la bestemmia noi possiamo dire una cosa. Mancava da un paio di puntate. La bestemmia, sì. Secondo me ci stavamo abbellendo un po' troppo. Infatti... Noi abbiamo preso un bellissimo trend. Tre, sentitelo. Per cui eravamo arrivati ad avere tipo 7-8 persone qua di punto. Nessuno. 7-8, erano 7-8 e fra l'altro 4 erano amici. Ma neanche così stretti. Adesso noi abbiamo qua una ventina di persone che hanno pagato. Non ne conosciamo nessuna. E questo... C'è del pubblico. Perché? La serata brutte persone sta andando male. Senti che gelo. Io sto riaddrizzando la situazione. Potremmo stare Quanti di voi piano. Torneranno a casa settimana prossima? Nessuno, perché non ci siamo la prossima, neanche noi. Quindi è difficile. Ma sai che noi cambiamo le date sempre. Sì, però di solito l'unica costante è 15 giorni. Proprio l'unica regola che abbiamo. Sei sicuro? Abbiamo fatto una volta due settimane di filo. Sì, va bene, non stare qua entrando nel tecnico. Ma non lo so, ma sei te che mi stai portando in questa conversazione privata fra di noi. Come va? Cosa mi racconti? Allora, sai fa denti cosa faccio io? Stai sudando tantissimo. Tu mi hai rotto il cazzo. No, basta. È arrivato il momento delle botte. No. No, fai la performance. Non so cosa sta facendo. Faccio Bugo. E io che mi aspettavo chissà che. Va bene signori, ringraziamo Bugo e la sua maleducazione, siamo al penultimo comico, dovrebbe sì, lo vedo arrivare, è matto vero, il più matto che abbiamo forse, e lo dico con orgoglio, guardatelo come si pavoneggia quando dico matto, è qui con noi per la ennesima volta, un grande applauso a Emanuele Laghi. Manuele, te lo dico tutte le volte con la M. Ah, scusami. Con la M. Diciamo che è il minore. Perché Emanuele significa Dio è con te, senza la E sei senza Dio. Va bene. Ho iniziato malissimo. No, ma vedo che siete tutti performanti stasera. Io scelgo. Forse meglio per te, per la magra figura che farò. Bene. Nessuno che, non so, cioè inizia, arriva qualcuno, fate un applauso, non lo chiamo mai l'applauso, cazzo! Allora, io è 3-4 settimane che sto cercando di scrivere un pezzo nuovo che parla di Pornhub e mi sto documentando un sacco sull'argomento. Il problema, sono disidratato e ancora non sono riuscito a scrivere il pezzo nuovo. E quindi vi farò un pezzo vecchissimo, bruttissimo, che vi convincerà a non tornare più, però è in tema su quello che hanno detto prima, perché vi parlerò, c'è anche questo, vi parlerò degli addominali di Gesù. Allora, non so se avete presente, ok, adesso è ancora brutto tempo, però magari state già pensando alle vacanze, al mare, se siete in una, in una località di villeggiatura e andate tipo in Puglia, andate a visitare una chiesa, vi chiedono sempre di coprirvi le spalle, non potete andarci in pantaloncini, no? In pantaloncini e canottiera, bisogna coprirsi. Perché? Cos'è? Gesù è geloso e vuole essere lui l'unico con quegli addominali da urlo. Gli addominali di Gesù. Ma come fa ad averli così? Come fa a essere così definito? Forse perché fa crunch attaccato alla croce tutto il giorno? Gesù, Gesù Cristo è stato il primo uomo metrosexual della storia. Pensateci. Chi è il primo uomo metrosexual che vi ricordate? David Beckham. E anche Gesù è come David Beckham, con quei capelli con le mesh, sì, perché ovviamente un ebreo biondo non si è mai visto. Certo, per essere un vero uomo metrosexual come Beckham avrebbe dovuto avere qualche tatuaggio. Gesù non aveva tatuaggi, però aveva dei gran bei piercing alle mani e ai piedi. Questa era un po' cattiva. E ecco, io mi chiedo, come chi è che gli avrà fatto quelle mesh? Magari è stata Dalila, che è andata a fare, prima ha fatto lo scalpo a Sansone e poi è andata a fare le mesh a Gesù Cristo e gli ha anche consigliato quelle belle lenti a contatto azzurre. Le lenti a contatto, perché un ebreo biondo con gli occhi azzurri non si è mai visto. Cioè, ha un'idea del genere, c'è il terzo Reich che si rivolta nella tomba. Ma la mia domanda è, scusate, bevo, è bruttissimo essere alla fine, perché io poi mi alcolizzo, cioè non mi ricordo più le cose. Bevo, cioè, così io domani mi dimentico e la prossima volta torno, faccio cagare di nuovo e non miglioro. Allora, stavo dicendo, come fa Gesù a essere così definito, ad avere questi addominali scolpiti? Forse perché lui mangia solo pesce a furia di moltiplicarlo, mentre i carboidrati, il pane, lo dà tutto agli apostoli. È per quello che Giuda l'ha tradito, perché lui è lì tracagnotto, brutto, con questo grasso a furia di intingere il pane nell'unto del Signore. E vede lui che è bello come un Cristo in croce, con questi capelli biondi, gli occhi azzurri e questo naso alla francese che chissà che gliel'ha rifatto. Sì, perché biondo, occhi, un ebreo biondo con gli occhi azzurri e il naso alla francese. Ma ha un'idea del genere, c'è la Polonia che si invade da sola. Mica siete stasera. Grande risposta, va bene, dai, tra poco mi levo dal cazzo. Allora, io penso questo, giusto per continuare nella blasfemia totale, già che non ho dato abbastanza. Come la nostra rappresentazione di Gesù è in questo modo, perfetta, bellissima, eppure io da bambino Gesù non riuscivo a immaginarmelo in quel modo, perché dovevo sentire i discorsi di mio padre, quando, cioè, alla fine Gesù è il figlio di Dio e, insomma, Maria, la sappiamo, è una presta utero, e a sentire i discorsi di mio padre io non mi aspettavo che fosse così, perché secondo mio padre doveva assomigliare più a un cane o a un porco. Questa è lenta. C'è qualcuno che sta applaudendo dal bagno, forse? Comunque, questo era un pezzo che non funzionava 10 anni fa e ha creato il gelo una volta che l'ho fatto a un convegno di Azione Cattolica. Mi fa molto piacere aver creato il gelo anche qui. Io comunque sono Emanuele Laghi, se volete mi trovate fuori per essere minato o al bar per essere seviziato o dove cazzo volete. Buona serata. Signore e signori, Emanuele Laghi. Abbiamo l'ultimo comico, ma lo faccio attendere un minuto, ma non per altro. Pausa! Ho sentito pausa? No, no, ma faccio l'ultimo e finiamo allora. Faccio l'ultimo e finiamo. È l'ultimo, signori, è pronto, lo vedo lì. State tranquilli che siamo davvero in dirittura d'arrivi. Vi chiedo un grandissimo applauso. Non mi sta ascoltando, quindi parlo lentamente. Vi chiedo un grandissimo applauso a Franz Rotundo. Fate intanto. Continuate. Serviva l'interprete Lis stasera? Ok. Buonasera. Madonna, ma il pubblico di stasera è tutto con questo entusiasmo? Cosa, gli avete servito del profanol dentro dei bicchieri? Madonna. Vabbè, allora, chi è che almeno una volta gli ho scattato delle foto? Chi è che è qua perché almeno una volta me l'ha data? Chi è qua perché almeno una volta me l'ha data e me la ridarebbe stasera? Chi è qua perché non me l'ha mai data ma me la darebbe stasera? Un successo incredibile, devo dire. Vabbè, faccio tutte queste domande perché comunque si può capire, sono tornato single, fatto inspiegabile. Sono tornato single nonostante la mia prestanza e nonostante il fatto che, non vi ho ancora detto il mio segreto, io ho un profilo OnlyFans. Ma io ho un profilo OnlyFans non perché abbia il cazzo particolarmente grosso, è che sono solo molto bravo ad allungarmelo con Photoshop. Vabbè, comunque, sono diventato single perché purtroppo ho avuto una discussione con la mia ex. La mia ex ha messo in giro una voce, messo in giro la voce che io mi sono scopato una di 16 anni. Falso. Non potrei mai scoparmi una più grande di lei. No, no, no, state calmi, la mia ragazza, la mia ex ha 22 anni, stavamo insieme da 10. Mi ricordo la prima volta che abbiamo fatto l'amore, reggiseno di pizzo, calze a rete, lei invece era completamente nuda. Tra l'altro, a lei ha sempre dato fastidio questa storia che io faccio il comico, e quindi mi ha sempre detto o la smetti di fare il comico o io la smetto di depilarmi. Tra l'altro, la mia ex era talmente fredda che quando aveva il ciclo era subito granatina. Questa arriva dopo. Vabbè, il fatto comunque è che noi ci iscriviamo a Tinder non di base perché vogliamo scopare, ma perché comunque ormai tutti i vari corteggiamenti e cose sono totalmente cambiati. Cioè non puoi più andare da una ragazza, presentarti, offrirle da bere, perché questa ti denuncia per stalking. O almeno questo c'è scritto sulla denuncia che mi è arrivata oggi. Che avessi il cazzo di fuori o meno, questo è un altro discorso. Vabbè, quindi mi sono rotto le palle di stare su Tinder e ho cercato di trovare un nuovo giro di persone, e questo nuovo giro di persone ho provato a cercarlo tramite la stand-up comedy. Ho cominciato a fare stand-up comedy. E all'inizio devo dire che non stava andando molto bene. E tra l'altro mi ricordo la prima volta che ho fatto uno spettacolo di stand-up comedy. Mi ricordo anche quanti soldi ho preso, era una banconota da 10 euro. E ancora mi commuovo quando penso a quando qualche secondo dopo l'ho arrotolata. Tutti puritani stasera. No, vabbè. Comunque stavo dicendo, non stava andando bene, quindi ho deciso di studiare. Ho cercato di studiare i metodi e tutte le varie tecniche dei grandi della stand-up comedy, ed è proprio grazie a Bill Cosby che ho capito che quella era la mia strada. chissà, ride. Ok, vabbè, tra l'altro è un periodo in cui hanno cominciato a riconoscermi anche. Quindi l'altro giorno sono entrato in un locale, in un negozio, e la cassiera da lontano mi guarda e mi fa: ehi, ma tu sei quello che ho denunciato per stalking, quello col cazzo di fuori! Cazzo, non entra una stasera. Proviamo queste facili, va? Sta finendo l'era delle mascherine. Facciamo un applauso alle mascherine che si sono levate dal cazzo finalmente. Durante questo periodo di mascherine c'erano due tipologie di persone che mi stavano estremamente sul cazzo. Punto primo, quelli che mettevano la mascherina in macchina da soli. Punto secondo, quelli che mettevano la mascherina e la tenevano sotto al naso. Parlo con te, mia testa di cazzo, che mettevi la mascherina e la tenevi sotto al naso. Sappi che tenere la mascherina sotto al naso è utile quanto può essere utile un tagliaunghie per bebè Vio. Bella. Sai che ne avevo anche un'altra su bebè Vio? Però non la faccio perché mi sembra monca. Non mi sono ancora presentato, scusate, sono Franz Rotundo e anche se dal mio accento non si direbbe, sono calabrese. Tanto per restare in tema di disabilità. Noi calabresi ci teniamo alle tradizioni. Il lutto quando muore qualcuno, il vestito buono la domenica per andare in piazza, sciogliamo nell'acido chi ci sta sul cazzo. E vi conviene fare un applauso alla battuta prima perché siamo anche molto permalosi e so dove avete parcheggiato. Vabbè, parliamo di acquisti online. Quanti di voi fanno acquisti online nel 2023? Vediamo un pochino. Nel 2023 mi sembra anche ovvio. Io faccio molti acquisti online, l'altro giorno ero con una mia collega e non so se vi capita, no? Quando fate un acquisto su Amazon ad esempio, poi su Instagram vi arriva il suggerimento di acquisto. Vi è mai capitato? Ero con questa mia collega l'altro giorno e come suggerimento di acquisto gli è venuto di comprare un cartonato a grandezza naturale di Albano. Io ho voluto fare il diverso, ho comprato un cartonato a grandezza naturale di Giorgia Meloni. È alto così. Ah, a proposito di Albano, ho un amico talmente bravo a imitare Albano che il mese scorso gli è scomparsa pure la figlia. Ho un amico che è talmente un tipo poco raccomandabile. Pensate, abitiamo entrambi in via Cavour, io sto al 41, lui sta al 41 bis. Notiziona, non so se avete sentito, il fisco pignora Tiziano Ferro 9 milioni di euro, oltre a case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale. Non è per lamentarmi dell'aumento del gas, ma credo che nell'ultima bolletta mi abbiano addebitato anche l'olocausto. Non aumenta soltanto il gas, aumenta anche la benzina. E io ho un'auto che beve tantissimo. È una Fiat Grignani. Dichiarazione, la Boelcan, vorrei tirar su un figlio. Minchia, pure quello. Ho un amico talmente povero che come serie TV guarda La Casa Popolare di Carta. Vaticano! Abusi sessuali nella Chiesa, la posizione del Papa. Di solito sopra. Quanti sono di Napoli stasera? Vediamo un po'. Quanti sono di Napoli? Quanti possono contare ancora fino a 10? No, vabbè, io lo chiedo sempre quante persone sono di Napoli, ma non per il fatto che si possano offendere, ma perché se poi magari le battute sono belle, poi me le rubano. No, dai, è uno stereotipo, lo sappiamo, è uno stereotipo. Quindi adesso chiedo, visto che parliamo di stereotipi, cosa si dice dei milanesi? Pubblico interattivo, non sono un video, potete parlare con me. Sono di fretta, ok. Cosa si dice dei calabresi? Che sono milanesi, è vero. Che dice che siamo tutti qua a Milano, i calabresi, è vero. Cosa si dice dei genovesi? Questa la sanno sempre tutti, Ogni spettacolo, tirchi, subito. Cosa si dice degli uomini bassi? Io non sono alto neanche 1,70, signori. La pubblicità è l'anima del commercio. Buonanotte a tutti. Ero Franz Rotundo. Franz Rotundo qui ha lasciato il suo leggio, ma non c'è problema, metto a posto io, faccio tutto qua io, sono la cameriera io in sto posto. Signori, siamo arrivati addirittura d'arrivo, non dovrebbe esserci più nessuno. Quello che chiedeva la pausa giustamente si è alzato. Alberto Vitale, eri tu. Voglio ricordare a chiunque si voglia esibire come Academy che posto ce n'è. Certo, come vedete noi facciamo una selezione che può sembrare ardua, ma si può superare. Sì, sì, sì, sì. Pensate, e meno male che ti ha detto di venire. Alle volte questi inviti fatti così all'ultimo momento. Sì. Possiamo chiudere oppure possiamo ricominciare con Romualdo, se qualcuno è interessato. Ragazzi, io una sera vorrei fare la roba che, cioè, finisce lo spettacolo tipo stasera, chi è stanco può uscire, chi invece vuole farsi male, noi andiamo avanti a loop, ma tutto a braccio. E quando dici noi intendi tutti noi, tranne Valerio, perché è già ma fuori. Valerio è fuori, Valerio è andato a casa, Valerio non si ricorda neanche chi è arrivato. Siete stanchi, come sta andando? Bene, sì, sì, si mangia bene in questo posto. Ci mangia bene, sì, il caffè è buono. Sembra stiate parlando di un bar, di una colazione buona, tirano l'acqua al bicchierino. Tutto a posto. Benissimo. Che entusiasmo. Signori, grazie a tutti, grazie a Alex Alge, grazie a tutti i comici che si sono esibiti, non li chiamerò tutti per nome, così almeno la gente non vi viene a cercare, non vi insulta. No, no, ricordiamo che secondo Valerio la prossima settimana, il prossimo appuntamento è settimana prossima. Sì, prossima settimana c'è Valerio qua da solo. Fa lui, si esibisce lui col locale vuoto. Noi ci vediamo tra 15 giorni il 16 marzo, che è giovedì, e già mettiamo le mani avanti perché il 30 marzo ci sarà spettacolo di Alberto Vitale, Enrico Veronica e Silvia Conti, quindi una serata solo a tre comici, e che comici, permetto di dire. Grazie ad Alberto che fa nettamente più di quello che fa Valerio, ma non ci vuole tanto. Grazie a Alex Alge, grazie ai comici, grazie a voi. Se vi siete divertiti, buttate delle monete lì dentro. Grazie, buonanotte. Se non vi siete divertiti, chiedete i soldi a Valerio Iro invece. Esatto. Valerio è qua per rimborsare. Se adesso noi parliamo, la gente non si alza, vedi? Allora, quanto vi piacerebbe andare avanti altre due ore? Ma stancando, voglio vedere uno che rimane solo qua. Solo uno. Ma dai, suona qua. Ma lo suoni o lo fai a caso? A caso, ovviamente. Ah, non c'è neanche... guardate. La serata è finita, buonanotte a tutti. E anche stasera si è guadagnato il suo trentello. Il tuo trentello te lo sei fatto stasera, eh? Ma dai, non suoni male tutto sommato. Ma è la radio in realtà, lui sta appoggiando i testi ma ha messo il cellulare sotto. Speravo tu cantassi una canzone adesso. Cantare, però possiamo andare avanti così. Qualcosa di Frank Sinatra, te ne intendi? Andiamo. Parliamo finché non si svuota. Sì. Siamo qua, ci raccontiamo i cazzi nostri. Pardon? No, no, è finita, amico mio. So che ne vorresti altre due ore. Buon gustaio. Ah, c'è il manicomio criminale, se vuoi ancora vai là, ti vai a vedere. Beh, Dante non ha detto la sua battuta più forte, però. Qual è stata? Possiamo dire. Posso citarla, non so se c'è Dante. José, sei ancora qua? Scusa, dico io la tua battuta, una delle tue. Tanto qua adesso stiamo parlando per vedere chi resiste nel pubblico. È solo resistenza. Vuole dire una delle tue battute che non hai detto. Sì, sì. Non tutti conoscono il segreto della Coca-Cola. Pepsi. Questo per chi frequenta la portata delle brutte persone. Perché? Perché non l'hai fatta? Perché l'ho detta qui tante volte. Vedi che c'è la gente. Tu c'hai fan. C'è la gente che te la chiede. Adesso non puoi farla adesso però. Nessuno sa la ricetta segreta della Pepsi. Aspetta, ma? Tranne Pep. Pep, sì. Esatto. Andate tutti a fare in culo adesso. Anche l'ho sentito un sacco di volte, l'ho detto sbagliata, grazie. Non era così.